nella nostra vita. Se un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto. Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Con el bajo, Trevor Dunn. Sassofono e altri cazzi, Enrico Gabrieli. Y aquí somos l'Orchestra Filarmonica de Buenos Aires.